Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non è fatalità, non è caso fortuito, ci sono delle precise responsabilità per colpa. Credo che questo sia il senso più vero della sentenza. Poi le singole posizioni dobbiamo attendere ovviamente le motivazioni, poi valuteremo anche noi eventuali ulteriori passi. Avete sentito il procuratore di Lucca che, a proposito della sentenza che è arrivata oggi sulla strada di Viareggio del 2009, dice non fu certo fatalità, non fu certo un caso, ci sono delle responsabilità. Di questo parleremo in modo approfondito questa sera nel corso di Effetto Notte, ci faremo varie domande naturalmente, parleremo della sentenza e poi qualcuno si chiede, ma per un amministratore delegato, ex amministratore delegato che era Moretti, una condanna a 7 anni è una cosa equa? Fino dove arriva la responsabilità di un AD, di un amministratore delegato in quel caso? E poi c'è il rischio della prescrizione, perché questa è una sentenza di primo grado. Ci occuperemo anche di molte altre cose, per esempio dell'arresto del procuratore di Aosta che nelle intercettazioni sembra anche forse coinvolto, sembrerebbe, con degli andranghetisti, almeno parlano di lui in queste intercettazioni. Poi c'è il calcio, col calciomercato c'è anche la Coppa Italia in corso, la semifinale Inter-Lazio per il momento a 0-0, insomma come sempre un sacco di notizie qui Effetto Notte per avere il quadro completo della giornata dei fatti più importanti. Per la vostra interazione qui c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, sempre per le vostre osservazioni, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Intanto vi racconto, come sempre, prima che giornata è stata. Strage di Viareggio, condannati super manager per i 32 morti del giugno 2009, 7 anni a Moretti ed Elia. Stati Uniti, bando sui visti, Trump caccia la ministra della giustizia poiché non li approva, tensione con Berlino sull'euro, Merkel replica, la BCE è autonoma. Lavoro, secondo i dati Istat la disoccupazione giovanile va oltre il 40% a dicembre, mentre sono in calo gli inattivi. Armi a Iran e Libia, fermata una coppia italiana convertita all'Islam. Aosta, nell'ordinanza di custodia cautelare per il procuratore Longarini, il GIP scrive anche di intercettazioni di ndranghetisti che parlavano di lui. La tragedia dell'hotel Rigopiano, quasi tutte le vittime morte sul colpo. Politica italiana, l'incubo scissione sul PD, Bersani dice non garantisco nulla e si apprende che la legge elettorale sarà all'esame della Camera il 27 febbraio. Allarme delle gerarchie cattoliche, frati e suore in fuga dalla tonaca, 2300 abbandoni l'anno, molti poi si sposano, la Santa Sede vuole correre ai ripari. Sanremo, dopo le polemiche per il compenso da 650.000 euro, Carlo Conti fa sapere che devolverà una somma ai terremotati. Sport, per il calcio Inter e Lazio in campo per la semifinale di Coppa Italia, alle 23 si chiude il calcio mercato e per il doping la Russia è esclusa dalle Paralimpiadi invernali del 2018. Partiamo quindi dalla sentenza sulla strage di Viareggio, la strage ferroviaria di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone. Sono stati condannati a 7 anni gli ex amministratori delegati di FS e Rete Ferroviaria Moretti ed Elia al processo di primo grado. Le accuse sono di disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni colpose. 10 le assoluzioni. L'avvocato di Moretti parla di sentenza populista. Dopo questa sentenza il titolo di Leonardo Finmeccanica, di cui ora Moretti è amministratore delegato, ha perso in borsa il 2,3%. Da parte sua il gruppo FS replica con delle cifre all'accusa di mancanza di sicurezza. Stefano Biserni, capo ufficio stampa di FS. Per quanto riguarda la sicurezza, dal 2002 al 2014 il gruppo ha investito 19,5 miliardi di euro per garantire gli standard massimi di sicurezza, standard che ci portano a essere tra i sistemi ferroviari più sicuri a livello europeo e mondiale. Poi torneremo, come dicevo, su questa sentenza anche per riflettere su alcuni aspetti in particolare. Stati Uniti adesso, sui quali continuano a essere puntati i riflettori del mondo intero dopo il bando ai migranti. Oggi, da parte di Trump, è arrivato anche l'attacco sul fronte monetario. Donald Trump accusa altri paesi di approfittare dell'America attraverso la svalutazione delle loro valute. Lo fa in un incontro con i vertici del settore farmaceutico, citando esplicitamente la Cina e il Giappone, colpevoli, secondo il presidente americano, di pianificare il money market, manipolando rispettivamente lo yuan e lo yen. Le parole di Donald Trump hanno fatto seguito a quelle di Peter Navarro, il capo del Consiglio nazionale del commercio della Casa Bianca, il quale, parlando al Financial Times, ha accusato la Germania di usare un euro ampiamente sottovalutato per avvantaggiarsi sugli USA e sui suoi partner europei. europei. Navarro ha definito la Germania come uno dei principali ostacoli a un accordo commerciale tra USA e UE. Parole che hanno suscitato la reazione della cancelliera tedesca, la quale ha sottolineato che la Germania ha sempre incoraggiato la BCE a fare una politica indipendente e perciò non posso e non voglio cambiare proprio nulla, ha concluso Angela Merkel. Intanto, mentre dilaga negli Stati Uniti e nel mondo la protesta contro il bando all'immigrazione di Donald Trump, quest'ultimo ha licenziato la ministra di interim della giustizia Sally Yates per aver ordinato ai legali del suo dipartimento di non difendere il decreto del presidente in tribunale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre New York, al grido di Not My President, si prepara a una grande mobilitazione fissata per il prossimo 20 febbraio, una data non casuale perché il 20 febbraio è il giorno infatti in cui si festeggia il President's Day, il senatore Bernie Sanders, il democratico ex candidato alla Casa Bianca, si schiera con il presidente Trump sul necessario calo dei prezzi dei medicinali. Oggi Trump aveva chiesto alle case farmaceutiche di abbassare i prezzi delle medicine. Presenterò, dice Bernie Sanders, a breve un progetto di legge per ridurre i prezzi, lavorerò con Trump su questo. E adesso in Italia è alle battute finali il negoziato sulla manovra. Scade domani il termine concesso all'Italia per rispondere alla lettera inviata da Bruxelles. L'Italia sta limando la risposta a questa richiesta dell'Unione Europea di una manovra aggiuntiva sui conti pubblici. A Bruxelles dovrebbe arrivare domani. Il governo intende rispettare le regole europee, fa sapere, ma con una strategia di lungo periodo, includendo le spese per il sisma e lasciando fuori dalla porta una manovra depressiva. E adesso il lavoro con i nuovi dati dell'Istat. Sono ancora i giovani più colpiti dalla disoccupazione. Se infatti in generale il tasso dei senza lavoro a dicembre resta stabile al 12%, tra i 15 e i 24 anni risale, superando quota 40%, un aumento di 0,2 punti su base mensile e al livello più alto dal giugno 2015. Un mondo del lavoro sempre più anziano. Aumenta infatti il numero degli occupati, 242.000 in più nel 2016, ma soprattutto quello degli over 50. In parte spiega l'Istat per l'invecchiamento della popolazione, in parte perché si va in pensione più tardi. Calano infine gli inattivi, e cioè gli scoraggiati, così il presidente di Confindustria Boccia. È evidente che l'accelerazione sulla crescita deve comportare una dimensione di occupazione, di occupabilità nel paese. Dobbiamo lavorare a una grande stagione di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. L'occupazione è stabile su base mensile e in crescita su base annua, commenta il ministro del lavoro Poletti, sottolineando come dal febbraio 2014 sia aumentata di 602.000 unità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E da Taranto arriva la notizia che all'Ilva quasi 5.000 lavoratori saranno messi in cassa integrazione. La crisi internazionale pesa e l'Ilva conteggia 4.984 esuberi temporanei nello stabilimento di Taranto, più 80 in quello di Marghera. Lavoratori che da marzo andranno in cassa integrazione straordinaria. L'azienda lo ha comunicato questa mattina ai sindacati di categoria FIOM, FIM, WILM, USB, che hanno respinto la proposta al mittente e sono pronti anche a scioperare. Il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, secondo i sindacati, rischia di aprire fronti incerti rispetto alle tutele occupazionali, in una fase delicatissima per l'azienda. All'orizzonte c'è infatti la cessione degli asset produttivi. Inoltre, sottolineano i sindacati, la cassa integrazione straordinaria avrà effetti pesanti sui redditi dei lavoratori, che, per effetto della riforma degli ammortizzatori sociali, delineata dal Jobs Act, perderanno in media dai 130 ai 150 euro al mese. Le tute blu di CGIL e CISL e UIL chiedono così una deroga al Jobs Act e un tavolo al Ministero. Governo e azienda, intanto, sarebbero già al lavoro per mantenere lo stesso livello salariale garantito dai vecchi ammortizzatori sociali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica italiana, con le polemiche interne al PD, con le ipotesi di scissione. Sentiamo che cosa ha detto Pierluigi Bersani al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. Non faccio nessuna minaccia. Non prendo neanche nessun impegno particolare. Io dirò nei prossimi giorni quel che penso sia sensato per chiunque voglia bene al PD e all'Italia. Dopodiché mi aspetto una risposta, tutto qui. Ma è assurdo andare al voto prima di un congresso? Non lo so, credo che in tutti i partiti del mondo, no? Prima di andare alle elezioni, che ci saranno, adesso saranno il 2018, fino a quando saranno, in tutti i partiti del mondo si fa il punto sul programma, la leadership. Ovunque, quindi qui c'è una questione democratica, non solo per l'Italia, anche per il PD, e se no la cosa diventa veramente, veramente seria, perché saremmo all'inedito, ecco, tutto qua. Insomma, calma, consiglia un po' di calma al segretario. Ma io guardo i consigli, adesso non ne do più, perché vedo che in tutti questi lunghi anni sono serviti bene a poco. E a proposito di legge elettorale, notizia di poco fa, il 27 febbraio la legge elettorale sarà all'esame dell'Aula di Montecitorio, lo hanno deciso i capigruppi appunto della Camera. E arriviamo alla cronaca con questo traffico di armi verso Iran e Libia. Ci sono stati 4 arresti oggi e anche una coppia di italiani radicalizzati. Violando l'embargo internazionale, vendevano all'Iran e alla Libia fucili d'assalto, missili terra-aria, missili anticarro ed eliambulanze che poi venivano trasformate in elicotteri da guerra. Sono 3 italiani e un libico, finora irreperibile, i destinatari dei provvedimenti di fermo emessi dalla DDA di Napoli. In manette è finito l'imprenditore Andrea Pardi, amministratore delegato della Società Italiana Elicotteri di Roma, già coinvolto in passato in un'altra inchiesta su traffico d'armi e reclutamento di mercenari. Nel napoletano sono stati invece arrestati Mario Di Leva e Anna Maria Fontana, 2 coniugi di San Giorgio a Cremano convertiti all'Islam. Nella loro abitazione è stata trovata una foto che li ritrae assieme all'ex presidente iraniano Ahmadinejad. L'inchiesta era partita da un'indagine sul clan dei Casalesi, che aveva coinvolto anche esponenti della Mala del Brenta. Dalle intercettazioni sarebbero emersi contatti tra la coppia di San Giorgio a Cremano ed uno dei capi dell'ISIS nel Maghreb, ma anche con i rapitori dei 4 italiani sequestrati in Libia nel 2015. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi sempre per la cronaca c'è l'arresto del procuratore di Aosta, di cui abbiamo fatto tempo a dare giusto la notizia ieri in chiusura di effetto notte. Nell'ordinanza di custodia cautelare per il procuratore Longarini, il GIP scrive anche di intercettazioni di ndranghetisti che parlavano proprio di lui. Approfondiremo poi questa notizia nel corso di effetto notte. E siamo alla tragedia dell'hotel Rigopiano, sarebbero quasi tutte morte sul colpo, le 29 persone nella sciagura dell'hotel. La conferma filtra da ambienti giudiziari. A quanto emerso, chi non è morto subito non è sopravvissuto alla valanga per lungo tempo. I medici legali hanno 60 giorni di tempo comunque per consegnare le autopsie, ma sarebbe già evidente che le morti sono giunte quasi tutte in un breve lasso di tempo. Traumi, asfissia, schiacciamento, con cause che quasi all'istante hanno prima tramortito, facendo perdere conoscenza, poi ucciso le vittime rapidamente. Insomma, se questo può essere in qualche modo di conforto. L'allarme delle gerarchie cattoliche adesso per il numero crescente, questo allarme di abbandoni della veste religiosa di preti e suore, denunciato recentemente anche dal Papa, un esodo che viaggia sull'ordine di diverse migliaia l'anno, tutti tra i 30 e i 50 anni d'età. Impressionano le cifre: negli ultimi 2 anni 2300 abbandoni all'anno, centinaia lasciano per sposarsi, abbandoni anche per il voto di clausura. La Santa Sede intende correre ai ripari. E per Sanremo, dopo le polemiche per il compenso da 650.000 euro, Carlo Conti in un'intervista oggi fa sapere che devolverà una somma ai terremotati. È più bello aiutare gli altri senza farlo sapere, dice, senza sbandierarlo per farsi belli. Avevo già programmato di destinare una somma importante alle popolazioni colpite dal terremoto e volevo tenerlo per me, ma purtroppo, dice Conti, queste polemiche assurde mi costringono a renderlo pubblico. E adesso devolverà a noi le sue informazioni, Dario Ricci, su partita. Tutto gratis. Prego, giornata interessante perché fra poco finisce il calciomercato alle 23, ma intanto in campo ci sono a San Siro Inter e Lazio che si giocano un posto nella semifinale di Coppa Italia. Siamo al 26esimo del primo tempo e Lazio in vantaggio a sorpresa dopo un bel inizio dell'Inter, che è pure andata vicino al gol con Dogbia. Al 20esimo il bel cross di Lulic, il colpo di testa di Felipe Anderson a battere Handanovic, quindi Lazio in vantaggio, ma partita che davvero è finita qui, anche perché l'Inter è la squadra del momento, quella più in forma, quindi pronta la reazione dei nerazzurri. Tu dici, Dario, allora sì. Ci riaggiorniamo più tardi con Dario Ricci per capire se cambia il risultato della partita. Nel frattempo vedo molti vostri messaggi sulla sentenza per la strage di Viareggio, tra pochissimo ne parleremo. Per esempio Francesco scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che il sistema di sicurezza fosse carente, è logico che abbia condannato il management. Continuate con i vostri messaggi su questo tema, sugli altri, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Viabilità, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in 60 minuti, il riassunto l'avete già sentito, alle 21 e qualcosa fino adesso, non perdete neanche un minuto, mai vi dico sempre di Effetto Note per non poter dire un giorno io non lo sapevo, perché se ascoltate Effetto Note tutte le sere dalle 21 alle 22 con me Roberta Ciordano avete sempre un quadro aggiornato di quello che succede in Italia e all'estero. Tra pochissimo andiamo ad approfondire la notizia di oggi più importante della sentenza sul caso della strage di Viareggio. Intanto vedo diversi vostri messaggi, potete continuare con le vostre osservazioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Vedo per esempio Cristiano dice: sentenza comprensibile, l'accusa di populismo alla pronuncia non può declassare una responsabilità evidente circa la sicurezza totalmente saltata in una sciagura simile, anzi, scrive Cristiano, non può che rinnovarla, moltiplicarla nelle urla dei parenti delle vittime, doveroso comunque attendere le motivazioni. Naturalmente, come sempre, bisogna aspettare le motivazioni, adesso vedremo di ragionare sugli elementi che abbiamo. Intanto, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo le notizie più importanti. Strage di Viareggio, Moretti ed Elia, supermanager condannati a 7 anni. La difesa di Moretti dice una sentenza populista. Intanto Leonardo Finmeccanica, di cui ora Moretti è amministratore delegato, perde il 2,3%. Bando sui visti negli Stati Uniti, Trump caccia la ministra della giustizia, intanto perché non approvava i bandi, intanto è tensione con Berlino da parte di Trump che dice la Germania sfrutta con l'euro gli Stati Uniti e l'Europa e Merkel replica la Banca Centrale Europea è autonoma. E poi risale al 40% la disoccupazione tra i giovani, secondo i dati Istat sono meno però gli inattivi. Incubo scissione sul PD, Bersani dice non garantisco nulla. E poi c'è il pressing del Movimento 5 Stelle per l'esame della legge elettorale e si apprende che sarà in aula il 27 febbraio. Traffico d'armi con Libia e Iran, è stata fermata una coppia di italiani radicalizzati, ci sono anche delle loro foto con l'ex presidente Ahmadinejad. E poi questo allarme della Chiesa Cattolica, frati e suori in fuga dalla tonaca, 2300 abbandoni l'anno. Palermo, la buona notizia per Palermo, che è la capitale della cultura italiana del 2018, chiude per il calcio il mercato d'inverno alle 23, intanto prosegue la partita di Coppa Italia, quarti di finale Inter-Lazio, 0-1 per la Lazio. Prima volta che sono stati condannati, è stato condannato il sistema, quindi loro hanno l'obbligo da oggi di rimediare a quelle mancanze, quelle negligenze che sono state fatte e che hanno ammazzato 32 persone. Ecco, questa che avete sentito è Daniela, una delle superstiti, Daniela Rombi, che nella strage ha perso una figlia, e questo è il suo commento subito dopo la sentenza che è arrivata oggi. Questa sentenza arrivata dopo 7 anni sulla strage di Viareggio, è comunque arrivata una sentenza di primo grado per quella strage del 29 giugno del 2009 in cui persero la vita 32 persone, tra cui anche alcuni bambini. Fu causata dal gas fuoriuscito da una delle 14 cisterne del convoglio del treno che invase il quartiere di via Ponchielli, causando forti esplosioni e poi un imponente incendio che distrusse anche diverse case. Il Tribunale di Lucca quindi ha condannato in primo grado oggi 23 persone per reati diversi, ma tutti collegati a questa strage, anche se ha dimezzato le richieste dell'accusa. Ha fatto particolarmente rumore, diciamo, la condanna a 7 anni del supermanager Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie, oggi è alla guida di Leonardo Finmeccanica. E poi 7 anni e 6 mesi a Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Poi ci sono state altre condanne, gli imputati erano in tutto 33, 9 le società, i condannati sono stati 23, 10 gli assolti. Ne parliamo con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Quindi, anche se qui c'è una distinzione che hanno fatto gli avvocati di Moretti dicendo che in realtà è stato assolto per una parte e condannato per l'altra, ci spieghi tu come è andata? Sì, sì, in realtà appunto sì, l'hanno esplicitata gli avvocati di Moretti, ma è stato subito evidente dalla lettura del dispositivo della sentenza, cioè vuol dire che Mauro Moretti è stato condannato come responsabile, diciamo, per il suo ruolo di passato amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, mentre è stato assolto quale ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, carica che ricopriva la sera, il giorno in cui ci fu la strage nel 2009. Ovviamente, come è ovvio dire, come in questi casi bisognerà capire, diciamo, dalle motivazioni il ragionamento, la riflessione fatta dai giudici. Quello che già, diciamo, il dispositivo della sentenza con queste condanne e anche la riduzione in alcuni casi, come in questo, perché la procura aveva chiesto 16 anni per Moretti, era stata la richiesta più dura, quello che già in qualche modo ci è possibile dire che di sicuro per i giudici quella strage non fu soltanto una fatalità, non fu soltanto uno scherzo del destino, qualcosa di ineluttabile che provocò, appunto, come ricordavi, quella fuoriuscita di GPL con l'incendio e con quella bolla di fuoco che investì interamente, appunto, questa via Ponchielli, di cui ricordo ancora le immagini, il giorno dopo era completamente un tizzone ardente. Quello che i giudici oggi dicono è che ci sono state delle responsabilità colpose per quello che è successo. Vedremo in che modo le spiegano, ma di sicuro stabiliscono che in qualche modo ci sono stati degli elementi in capo alla sicurezza che non sono stati garantiti dai vertici, appunto, delle società. Non a caso, diciamo, le condanne più gravi vanno ai vertici della società GATS, che era la società che aveva noleggiato quei carri merci. Società tedesca, no, Raffaella? Società tedesca di Hannover, sì, di Amburgo, scusate, che avrebbe dovuto, quindi, secondo i giudici, diciamo così, avere, adesso poi lo leggeremo che cosa, ma questo è facile dedurlo, avrebbe dovuto, diciamo, fare delle verifiche ulteriori. Quello che il processo si è, diciamo, in tutte queste lunghissime, più di 150 udienze, un punto centrale è stato su che cosa ha urtato questa cisterna, una delle 14 cisterne, quella che poi, appunto, ha provocato l'incendio. Questo è un punto centrale, vedremo i giudici che cosa stabiliranno, perché anche in base a questo si delineeranno anche le responsabilità maggiori o minori in capo alla sicurezza, appunto, anche dei vertici Trenitalia. Perché la domanda era stato fatto tutto il possibile, quindi anche tutti gli investimenti necessari in termini di sicurezza per garantire la massima sicurezza possibile, quindi avere sul tracciato ferroviario anche gli strumenti e le dotazioni tecnologiche più moderne, o invece esistevano ancora su quella tratta delle attrezzature più desuete che potrebbero aver contribuito a questa sciagura? Questo è un punto centrale, diciamo, di questo processo. Le pene sono state, appunto, quasi dimezzate in alcuni casi, e questo, come dire, qualcosa vorrà dire anche in capo, appunto, alle responsabilità e in capo al tema della sicurezza. Poi su questo approfondiremo tra poco con un altro ospite, Raffaella Calandra, però ti volevo dire intanto le parti civili anche sono state assicurate delle provvisionali, no? Dei sì, risarcimenti, sì, hanno avuto danni, dei risarcimenti molto, molto forti. Fu quello più alto, è proprio quello per Daniela Rombi, di cui abbiamo sentito la voce che di fatto fa da portavoce dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, che ha perso una figlia dopo una lunghissima agonia, perché delle società sono state appunto condannate, ad esempio Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana sono state condannate di fatto a pagare 700.000 euro ciascuna, grosso modo, mentre FS ed FS Logistica sono state assolte, pagamenti anche per la società tedesca, la GATS, che citavamo poco prima, e per la Jugendal Wagon, quindi un'altra delle società che era imputata in questo processo. Da parte sua la procura ha espresso soddisfazione, diciamo, per questa sentenza, dice che poi farà delle valutazioni successive a proposito di eventuali ricorsi per le singole posizioni, però secondo il procuratore Suca, in qualche modo questa sentenza stabilisce proprio che ci devono essere garantite le prescrizioni di sicurezza devono essere garantite fino al massimo. Questo è quello che ha detto in un'intervista. Raffaella, che poi lo faremo fatto sentire dopo il procuratore che hai intervistato tu, il procuratore Pietro Sucan di Lucca, che poi lo potrete sentire poi l'intervista integrale in Storiace, sempre di Raffaella Calandra, alle 21.30 sabato. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ci lasciamo, Raffaella. C'è il rischio che vada in prescrizione, come qualche ascoltatore sta scrivendo? Ci sarà l'appello, no, forse la Cassazione, sconteranno mai qualcosa? Sono reati gravi, disastro colposo, e per cui al momento la prescrizione è abbastanza lontana, non lontanissima, però è abbastanza lontana, per cui oggi quando abbiamo anche con il procuratore cercato di fare un po' di calcoli con la prescrizione, al momento questo rischio non sembra esserci, per cui i tre gradi di giudizio dovrebbero terminare chiaramente. Grazie Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao, grazie. Ciao. E adesso farei sentire, come avevamo anticipato, c'è qui Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Ciao Jacopo. Ciao Roberta e buonasera a tutti. Farei sentire, come abbiamo detto, il procuratore di Lucca, Pietro Sucan, intervistato proprio da Raffaella Calandra. Sentiamo che cosa ha detto a proposito della sentenza. Non è fatalità, non è caso fortuito, ci sono delle precise responsabilità per colpa. Credo che questo sia il senso più vero della sentenza. Poi le singole posizioni dobbiamo attendere ovviamente le motivazioni, poi valuteremo anche noi eventuali ulteriori passi. Lei ha già detto è una sentenza che guarda al futuro, perché? Guarda al futuro perché ha detto chiaramente che così come viaggiavano questi carri non possono viaggiare. Una chiara indicazione per il futuro che queste cose non devono succedere più. Le misure di sicurezza, le prescrizioni devono essere rigorosamente rispettate per evitare ulteriori vittime. È stata condannata la mancata sicurezza e per questo c'è la condanna anche dei vertici di rete ferroviaria. Direi di sì, anche se, ripeto, dobbiamo attendere le motivazioni. La sentenza dice che responsabilità penale ci fu, non marginale, ma copiosa, forte, e questo ci incoraggia nell'andare avanti. Quindi questo dice il procuratore della Repubblica di Lucca, che ci sono delle chiare responsabilità, questo dice la sentenza e quindi si andrà avanti con i vari gradi di processo. Ancora i vostri messaggi, Gaetano scrive su questo: non amo certo gli addì, amministratori delegati dagli stipendi milionari, ma se si rompe un asse di un carro merci, accade un disastro, si becca 7 anni, doveva forse controllare l'asse personalmente? Guido, e dove inizia e dove finisce la responsabilità dei magistrati? Ci sarà mai un giorno in cui, come tutti i mortali, pagheranno per i loro errori? Andrea scrive: la giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone. Un po' complicato il tuo messaggio, Andrea. Insomma, Jacopo Giliberto, ci si chiede, no? Hai sentito il procuratore, anche il presidente della provincia di Lucca dice: questa sentenza ha messo in evidenza quanto sia importante il dibattito sulla sicurezza del trasporto merci su ferrovia sia in Italia che in Europa. E allora, con questa condanna, un amministratore delegato, come chiedeva prima l'ascoltatore in modo un po' semplicistico, ma alla fine diciamo la domanda sottesa è quella, anche se non, cioè, se un vagone va fuori binari, se si rompe un asse, è responsabilità dell'amministratore delegato? Il tema è molto più ampio rispetto alla domanda che mi poni tu, Roberta. Ovviamente la sentenza dice che la responsabilità è dell'amministratore delegato, non solamente, anzi in questo caso in particolare, la responsabilità, le condanne più forti sono andate al proprietario dei carri, per cui alla GATX tedesca, e alla Jugendamt, che era l'officina di manutenzione, 9 anni, cioè a chi aveva il compito di preservare la sicurezza di quell'oggetto, dell'oggetto in movimento, del carro. Più leggera la condanna per chi era il proprietario dei binari, in questo caso Ferrovie dello Stato, Moretti e Michele Elia. Per cui ha già dato un'indicazione. Altre indicazioni potranno venire anche da altre sentenze, cioè è un tema molto forte che viene discusso su tutto il mondo dei trasporti e sul mondo industriale in generale. Cioè, quando fondo una petroliera, la responsabilità è del comandante della nave, è dell'armatore, è il responsabile, è il proprietario del carico, perciò del petrolio che produce l'inquinamento, o quando si rompe un oleodotto, l'abbiamo avuto l'anno scorso sul Polcevera vicino alle spalle di Genova, si è rotto un oleodotto per probabilmente un guasto non doloso, inquinamento grave. In altri casi sono guasti dolosi prodotti da attentati, terroristi, ladri o atti di sabotaggio. È molto difficile andare a determinare i danni che vengono prodotti e andare a individuare le responsabilità. In questo caso è stata individuata chiaramente non tanto nel proprietario dei binari, assolutamente fuori il proprietario del carico, cioè il GPL del gruppo Cosentino, sicuramente e fortemente i titolari della sicurezza e della gestione della sicurezza. Guido scrive anche lui: sentenza insensata, assoluto cordoglio, dice, rispetto per le vittime e i familiari, ma sono tragedie che sono successe, succedono e succederanno. Cosa c'entra realmente l'amministratore delegato in un caso come questo? Quindi in parte, insomma, hai dato la risposta che il dibattito è molto più ampio e, diciamo, è in corso da tanto tempo, e però questa sentenza, poi si leggeranno le motivazioni, ha dato una cospicua, come diceva il procuratore, responsabilità agli AD. L'amministratore delegato si chiama legale rappresentante, per cui ne risponde poi dal punto di vista della, certo, responsabilità civile. Altrimenti chi ne risponde, no? A parte tutta questa catena di cui abbiamo parlato. Grazie Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Ciao Jacopo. Ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. E per esempio Andrea dice: una sentenza politica, anzi sindacale. Insomma, bisogna dirlo a quelle vittime e poi bisogna dirlo anche a chi ha, dai magistrati, i giudici che hanno deciso per questa sentenza, e poi, come abbiamo detto più volte, si vedranno quali sono le motivazioni. 349-238-6666, dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte. Le notizie sono queste per il momento: Inter e Lazio 0-1 ancora per la Lazio, e poi ci sentiamo con gli altri temi tra pochissimo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Vedo una notizia di aggiornamento: Renzi, che in questi giorni si sta facendo risentire adesso con un sms alla trasmissione di martedì, avrebbe scritto: per me votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso, scrive Renzi, l'unica cosa è evitare che scattino i vitalizi, perché sarebbe molto ingiusto verso i cittadini, sarebbe assurdo. Così scrive Matteo Renzi in un sms. Anche i vostri messaggi, naturalmente, che proseguono, vedevo che naturalmente continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 sulla sentenza di cui abbiamo lungamente parlato per quanto riguarda la strage di Viareggio del 2009. Qualcuno anche scrive messaggi su questo allarme della Chiesa Cattolica per gli abbandoni di suore e frati, 2300 l'anno, pensate, lasciano la tonaca. Francesco dice: per correre i ripari la Santa Sede dovrebbe prima di tutto interrogarsi sulle cause, mentre Domenico ritiene che basterebbe abolire il voto di celibato. Continuate con le vostre interazioni qui Effetto Notte sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, mentre io, prima di passare al prossimo tema, vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata. Strage di Viareggio, condannati i super manager per i 32 morti del giugno 2009, 7 anni a Moretti ed Elia. Stati Uniti, bando sui visti, Trump caccia la ministra della giustizia poiché non li approva, tensione con Berlino sull'euro, Merkel replica, la BCE è autonoma. Lavoro, secondo i dati Istat, la disoccupazione giovanile va oltre il 40% a dicembre, mentre sono in calo gli inattivi. Armi a Iran e Libia, fermata una coppia italiana convertita all'Islam. Aosta, nell'ordinanza di custodia cautelare per il procuratore Longarini, il GIP scrive anche di intercettazioni di andranghetisti che parlavano di lui. E tra poco ce ne occuperemo. La tragedia dell'hotel Rigopiano, quasi tutte le vittime sarebbero morte sul colpo. Politica italiana, l'incubo scissione sul PD, Bersani dice non garantisco nulla, e si apprende che la legge elettorale sarà all'esame della Camera il 27 febbraio. L'allarme delle gerarchie cattoliche, frati e suore in fuga dalla tonaca, 2300 abbandoni l'anno, molti poi si sposano, la Santa Sede vuole correre ai ripari. Sanremo, dopo le polemiche per il compenso da 650.000 euro, Carlo Conti fa sapere che devo devolverà una somma ai terremotati. Per lo sport, per il calcio, Inter e Lazio in campo per i quarti di finale di Coppa Italia e sono sempre 0-1 per la Lazio. Alle 23 si chiude il calciomercato. Come vi dicevo, quindi approfondiamo la notizia di questo arresto del procuratore capo di Aosta, Pasquale Longarini. La notizia ve l'avevo già data ieri sera, del suo arresto, del commerciante Gerardo Cuomo. La storia è emersa durante un'inchiesta della Procura di Torino che poi per competenza ha trasmesso gli atti a Milano. La novità di oggi è che da alcune intercettazioni sarebbe uscito il nome di Longarini, intercettazioni di 'ndranghetisti che parlavano tra di loro e hanno citato il nome del procuratore della Repubblica di Aosta. In pratica, secondo quello che si sa sinora, il magistrato avrebbe convinto un albergatore di Aosta, sul quale stava indagando per fatture false e frode fiscale, a favorire un suo amico, questo commerciante che si chiama Cuomo. In che modo? Ordinando l'albergatore da questo Cuomo, ordinando forme di fontina per 70.000 euro l'anno, ma a un certo punto il gestore dell'hotel avrebbe deciso di svelare il ricatto di Longarini. Bisognerà aspettare gli interrogatori di Cuomo, dello stesso Longarini, per capire appunto meglio la vicenda, però appunto particolare inquietante di queste intercettazioni tra 'ndranghetisti che parlano di Longarini. Chiedo di raccontarci più nel dettaglio Stefano Sergi, che è responsabile della redazione di Aosta della Stampa, del quotidiano La Stampa. Stefano, buonasera. Buonasera a voi. Quindi, diciamo, questa è la notizia a grandi linee, dicevamo, di questo aspetto più inquietante. Ti risulta? Sì, gli aspetti inquietanti in quelle 20 pagine di ordinanza ce ne sono diversi, parlando di un magistrato come Longarini, che ha seguito le principali inchieste valdostane. Ce li ricordi? Per esempio Cogne? No, Cogne no, non c'era lui, è intervenuto solo marginalmente, ma lui ha dato il via alla prima grande inchiesta in Italia sulle tangenti, prima di Mani Pulite, sugli appalti ANAS. Poi sempre lui ha seguito in prima persona un'inchiesta su un omicidio commesso da killer della 'ndrangheta, quindi aveva, diciamo, dei temi estremamente delicati che ruotavano sulla sua scrivania, ed è sicuramente il magistrato di punta della Procura di Aosta. Detto questo, appunto, in quelle carte i particolari sconcertanti sono diversi. Uno è quello che accennavi tu, di questa intercettazione riferita dai carabinieri di Aosta, che avevano aperto un'indagine su infiltrazioni della 'ndrangheta, che non sono, ahimè, una novità per la Valle d'Aosta. In questa intercettazione è saltato fuori il colloquio fra due personaggi che loro definiscono 'ndranghetisti di primo piano, dove uno dice all'altro in sostanza che Longarini è in buoni rapporti con tutti, ma non mi ha aiutato in un processo. Quindi una frase piuttosto ambigua. Esatto, molto ambigua. E quindi appunto, particolari inquietanti sono legati a questo aspetto, all'aspetto delle conoscenze dirette, i rapporti di affari di Cuomo con un altro personaggio che i carabinieri sempre ritengono esponente di primo piano della 'ndrangheta, cioè Giuseppe Nirta, che è pluripregiudicato, che vive in Spagna. Altro aspetto inquietante, che sempre riferito nelle carte dai carabinieri, è che quando un alto ufficiale dell'arma riferisce a Longarini di questa indagine che sta sfiorando anche Cuomo, che loro definiscono persona diciamo interessante da un punto di vista investigativo per aver avviato questi rapporti con i Nirta, dal giorno dopo sostanzialmente Cuomo smette di parlare al telefono con Mirta, non si fa trovare, non lo vuole più neanche incontrare. E quindi si capisce che aveva comunicato, che Longarini l'aveva avvisato, almeno da no, diciamo che è una coincidenza, no, questo neanche il GIP nell'ordinanza, certo, si spinge a, però diciamo che è una coincidenza, dubbi. Esatto. E quindi appunto le parti rilevanti, sia da un punto di vista, come dire, etico, no, di quelli che sono i rapporti che può o non può un magistrato tenere nella sua vita privata, sia l'aspetto penale, ci sono diverse cose, ecco, che dovrà approfondire nell'interrogatorio. Come dicevi tu, anche molti ad Aosta sono sconcertati proprio per il fatto che è stato un magistrato che ha seguito molti, molti casi importanti, no? E quindi come, sì, si è caduto? Assolutamente. Era visto come i milanesi vedevano Di Pietro negli anni 90, nello stesso modo, insomma, l'incorruttibile, quello che non spiegava davanti a nulla, e in effetti le sue inchieste dicono questo. Fu lui ad arrestare l'attuale presidente della regione 20 anni fa, fu lui a indagare altri presidenti della regione in altre inchieste, insomma tutti i filoni principali finivano sul suo tavolo. Anche se Stefano Sergi, naturalmente è tutto da accertare, no? Certo, ci sono una serie di coincidenze, ci sono degli elementi, c'è questo albergatore che lo ha denunciato. Sono da accertare i reati, i rapporti personali no, sono un dato di fatto, e quelli diciamo che non sono una bella cosa per un magistrato, ecco. Quelli sono fuori discussione, ecco. Poi c'è l'aspetto penale che naturalmente potrebbe anche finire nel nulla, però, però i rapporti con persone chiacchierate, quelli sono nero su bianco e non sono un mistero, ecco. Senti Stefano, e quando si sa quando dovrebbe essere interrogato Longarini, il procuratore? L'interrogatorio è fissato per venerdì mattina. Venerdì mattina, quindi di questa settimana, esatto. Tra tre giorni. Benissimo, tra tre quindi giorni. Magari ci aggiorniamo su questo. Grazie Stefano Sergi della Grazie Stampa. A voi. Ciao Stefano. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro, e adesso vedo una notizia importante che è collegata alla sentenza di oggi per la strage di Viareggio, in cui Moretti, in primo grado, ex amministratore delegato di DFS, è stato condannato a 7 anni e ora è amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica. Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha verificato che permangono in capo all'amministratore delegato Mauro Moretti tutti i requisiti previsti dalla vigente disciplina, nonché la piena capacità di esercitare le prerogative connesse al suo ufficio, eccetera eccetera. All'unanimità, piena fiducia quindi all'ingegner Moretti, nel senso che il CDA conferma Moretti dopo la sentenza di Viareggio, perché c'era un po' nell'aria l'ipotesi che dopo questa condanna Leonardo Finmeccanica decidesse, lo spingesse in qualche modo a fare un passo indietro, invece conferma che Moretti resta amministratore delegato. Su questa notizia ci lasciamo brevemente, ci prendiamo questa pausa, voi potete continuare con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo quindi, sempre Roberta Giordano con voi. Le notizie più importanti sono appunto quella che riguarda la sentenza sulla strage alla stazione di Viareggio del 2009. Oggi è arrivata questa sentenza che condanna l'ex amministratore delegato Moretti ed Elia a 7 anni in primo grado. La difesa dice questa è una sentenza populista. Leonardo Finmeccanica oggi ha perso il 2,3% di cui Moretti è ora amministratore delegato, ma vi dicevo poco fa è arrivata la conferma da parte del CDA al ruolo di Moretti. E poi bando sui visti negli Stati Uniti, Trump caccia la ministra della giustizia che non era d'accordo con questo bando ai visti, e c'è tensione però tra Trump e Berlino, perché dice la Germania sta sfruttando con la moneta, con l'euro, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e Merkel risponde la Banca Centrale Europea è autonoma. Risale il 40% la disoccupazione dei giovani in Italia, questi sono i dati Istat, anche se sono meno gli inattivi. E poi per quanto riguarda la politica italiana c'è l'incubo scissione sul PD che continua, Bersani che dice non garantisco nulla e non minaccio, e poi si apprende che la legge elettorale sarà in aula per l'esame della Camera il 27 febbraio. Traffico d'armi con la Libia e l'Iran, per questo è stata fermata una coppia di italiani radicalizzati, si sono convertiti all'Islam. L'allarme della Chiesa Cattolica, frati e suori in fuga dalla tonaca, 2300 abbandoni l'anno, la Santa Sede deve correre ai ripari. Palermo, che è la capitale della cultura italiana del 2018. E poi per la Coppa Italia dovrebbe riprendere tra poco il secondo tempo Inter-Lazio, per il momento conduce la Lazio 1-0. Europa 24 notte. E per l'Europa parliamo della nascita del Consorzio Europeo per lo Studio del Mare. Coprono oltre il 70% della superficie della Terra, rappresentano l'habitat del 50% delle sue specie. Gli oceani però non sono ancora in gran parte sconosciuti, visto che finora solo il 5% della loro profondità sono state esplorate. Eppure lo studio degli abissi marini potrebbe fornire importanti informazioni anche su fenomeni climatici estremi e movimenti sismici, come quelli che abbiamo visto purtroppo in questi giorni colpire le zone del centro Italia. È per questo che nasce il primo consorzio europeo con 8 paesi coinvolti, avrà sede a Roma con il coordinamento dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Sentiamo Laura Beranzoli, ricercatrice dell'Istituto, al microfono di Alessandra Schepisi. Il consorzio ha lo scopo principale di coordinare un programma di ricerca nelle scienze marine che sia rivolto principalmente a fornire alla comunità scientifica europea nuovi dati, nuove misure di parametri ambientali acquisiti continuativamente nell'arco del tempo e contemporaneamente mettere a disposizione attrezzature all'avanguardia che si trovano in siti marini di particolare interesse per nuova sperimentazioni di sensori, sperimentazioni di metodi di analisi. Quindi è un grande contesto europeo in cui i paesi si uniscono in una joint venture per servire alla comunità scientifica europea nelle scienze marine. Cosa ci può dire lo studio del mare, lo studio degli oceani? Noi siamo portati dalla nostra natura umana ad interessarci di quello che vediamo più facilmente, quindi ci occupiamo delle scienze ambientali preferibilmente perché ci è più semplice, guardiamo ai fenomeni atmosferici, ne abbiamo avuto prova in questi ultimi tempi in Italia con queste grandi nevicate che hanno colpito il centro Italia, però dimentichiamo che il nostro pianeta è costituito per il 70% da acqua. Quindi è evidente che quella componente fluida del nostro pianeta è una componente fondamentale nella dinamica di tutto il pianeta e di conseguenza dobbiamo guardarlo con occhi un po' diversi, quindi chiederci qual è l'influenza che l'oceano ha nel clima e quale parte ha nei fenomeni estremi, gli uragani, gli tsunami e quindi dobbiamo investigarlo con un occhio diverso da quello che abbiamo adottato finora, ovvero guardare alle interazioni di questa grande massa d'acqua con le altre componenti del nostro pianeta, quindi con la Terra, con l'atmosfera, con la parte vivente del nostro pianeta, la biosfera. E quindi la caratteristica principale di questa grossa rete di osservatori sottomarini che circondano l'Europa, il compito è proprio quello di investigare a 360 gradi come l'ambiente marino, le varie componenti interagiscono tra loro e quale può essere l'influenza dell'oceano sul clima. E quindi potrebbe anche dare delle indicazioni su fenomeni come quelli che hanno colpito il centro Italia di recente. Chiaramente l'oceano e il Mediterraneo hanno un ruolo in questo, solo che noi non sappiamo ancora esattamente qual è effettivamente l'influenza di questo ruolo, perché non abbiamo delle osservazioni sufficientemente lunghe nel tempo. Quindi quello che noi vogliamo mettere in atto è l'acquisizione di misure di lunghissimo termine. Stiamo parlando anche di decenni. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. No, proseguono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Carlo Torino dice: perché una D guadagna molto? Perché deve scegliere validi collaboratori che a catena evitino queste sciagure. Quanta superficialità e molti messaggi, dice. Poi, cara Roberta, mi scrive un altro ascoltatore: mi occupo di sicurezza sul lavoro da tanti anni, posso dire che nessun datore di lavoro può dormire sonni tranquilli perché la normativa e la giurisprudenza hanno reso ogni azione che una persona per bene può compiere potenzialmente fonte di colpa in caso di incidenti. La responsabilità civile ok, ma quella penale per non essere infallibili no, dice Pierangelo. Poi bisogna attendere la sentenza, un altro ascoltatore. Ciò premesso, sembra assurda la chiamata in causa dell'amministratore delegato per fatti tecnici, anche se prima Jacopo Gilberto, il Sole 24 Ore, ci spiegava perché un amministratore delegato ha la responsabilità. Adesso però ha la responsabilità il nostro Dario Ricci di aggiornarci sulla partita Lazio-Inter, che mi pare la Lazio stia giocando piuttosto bene. Sì, sì, sta giocando benissimo la Lazio e anche l'Inter non sta deludendo. Partita frizzante a San Siro, ma ti confermo quell'1-0 che già avevamo comunicato nel precedente collegamento. 1-0 per la Lazio, in vantaggio al 20° con il colpo di testa di Felipe Anderson sul cross di Lulic. Lazio che ha avuto due clamorose occasioni per raddoppiare al 30° contropiede di Ciro Immobile, destro, diagonale, è ancora un'altra occasione incredibile. Ma cosa ha sbagliato? Cosa ha sbagliato Parolo? Praticamente ha tirato in alto, molto alto. Sì, ma da 3 metri dalla linea di porta, cara Roberta. Guardate, la respinta di Andano e ci arriva Parolo che calcia. E forse l'altro lo spingeva dietro. Sì, un pochino, però insomma, quello era da buttare dentro. Così come al 32esimo, dicevamo, Felipe Anderson in contropiede, stavolta bravissimo Andanovic. E poi l'azione che vi abbiamo descritto in diretta. Un Inter che però non è stata certa a guardare, ha avuto le sue occasioni. Adesso ha fatto entrare Pioli, Icardi e João Mario a posto di Palacio e Banega alla ricerca del pareggio, ma come vi dicevamo, Lazio davvero vicinissima al raddoppio, quindi 48esimo di gioco in questo istante a San Siro, Inter 0, Lazio 1. Mi pare che l'Inter non stia a guardare neanche nel calciomercato che si chiude alle 23, se non sbaglio. No, l'Inter ha fatto qualche operazione, la più significativa di oggi, l'addio a quello che è stato un capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, difensore centrale che lascia i nerazzurri e va in Premier League, dove indosserà la maglia dell'Hull City. A proposito di Premier League, altro movimento importante in uscita, la partenza da Napoli dell'attaccante Manolo Gabbiadini, che va al Southampton per 17 milioni più 3 di eventuali bonus. E poi, per chiudere, sempre relativa alla Premier League, c'è in campo il Chelsea di Antonio Conte, che sta vincendo per 1-0 al Liverpool, una vittoria che potrebbe essere fondamentale nella corsa a scudetto dei Blues dell'allenatore italiano. Caro Dario, abbiamo ancora un minuto per raccontare questa storia del doping che riguarda la Russia ormai da tempo, e la Russia adesso è stata esclusa dalle Paralimpiadi invernali del 2018, ma proprio gli atleti paralimpici ci escludono. Sì, perché come dicevamo ci sono due, il mondo olimpico e paralimpico chiaramente viene gestito dal Comitato Olimpico e Comitato Paralimpico, che fanno riferimento chiaramente a stesse normative e modalità di intervento, ma chiaramente hanno tempi decisionali e organismi paralleli ma autonomi l'un dall'altro. Quindi già la Russia era stata esclusa dalle Paralimpiadi di Rio e la sua rappresentanza nell'atletica leggera era stata di fatto falcidiata proprio per lo scandalo doping di Stato. Ora c'è questa ulteriore decisione che in realtà è semplicemente una prorogatio di quanto era già stato per i paralimpici. Però c'è anche la porta di rientro aperta, perché la decisione lascia aperta la possibilità di un reinserimento nelle Paralimpiadi nel caso che la Russia ottemperi. Si comportasse bene. Grazie Dario Ricci, con queste notizie sportive noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.